siamo lasciati nella prima parte di 70 irrecuperabili, con tanto di punto di domanda, di 451 frammenti sonori, per ritrovarci appunto nella seconda parte proprio con loro, Nexus Quam, unità in latino, e Osmose solcava non pochi piatti, probabilmente degli ascoltatori più avveduti, forse anche più visionari e così più deliranti a livello di suono nei primi mesi del 70, apriva proprio il decennio che tra l'altro fu decisamente interessante come apertura, soprattutto qua in Europa, proprio per le cose che stiamo trattando, ovvero quella voglia di sperimentare che aveva lasciato la psichedelia e anche le musiche, insomma, altre degli anni 60. Stava attraversando un periodo di grande fioritura, ci fu insomma quello che è stato l'arborio del prog rock, poi insomma adesso sembra quasi una parolaccia, in realtà fu un periodo di grande sperimentazione, e personaggi come Nexus Quam, seppur molto paralleli, seppur appunto liminari rispetto a quello che poi sarà l'esplosione dell'Inghilterra prog, e quindi anche dei grandi fenomeni insomma da stadio legati a quelle musiche, e di fatto insomma associazione tra prog, Genesis, Yes, è tuttora viva, forse molto meno rispetto invece a Nexus Quam o a, appunto, personaggi che abbiamo trattato prima come Anima, che tra l'altro condividono anche la stessa terra d'origine, ovvero la Germania. E se appunto si svilupperà tutto il discorso del kraut rock, della cosmice, sicuramente Germania si svilupperà anche dentro e fuori questo fenomeno che ha influenzato così tanto la musica del dopoguerra, anche così un viatico piuttosto strano e strambo di prog, decisamente sperimentale. Nexus Quam partivano appunto da quel verbo psichedelico che stasera stiamo più di una volta insomma citando, e stiamo rammentando, come dire, anche i vecchi percorsi, non musicalmente ma appunto attraverso formazioni tipo Yayowa, inizio trasmissione, che riprendono quel percorso e lo sviluppano. A Nexus Quam di fatto fa questo bellissimo e anche decisamente seminale per molti aspetti percorso, seppur travagliato, due album soltanto per questa formazione, 1970-1972. Abbiamo sentito Osmose, che lo dico in la tedesca germanica maniera, già col secondo del 72 si andrà verso lì di più vicini e più intelligibili in termini di prog. Qua siamo veramente su quel suono e su quella voglia ancora di sperimentare su quello che fu il suono psichedelico, portandolo dentro anche una fusione che di fatto operarono a Nexus Quam, quella fusione con una certa forma di jazz rock che da Davis in poi si svilupperanno, che avranno anche un'ottima scuola, se di scuola si può trattare, anche in Europa, appunto la MPS Record, per citare un'etichetta ad esempio tedesca, che riuscì a connotare anche in maniera decisamente interessante quello che era un prog molto sperimentale, con un'idea appunto di fusione jazz rock. Da Nexus Quam, un personaggio incredibile francese, quindi ci spostiamo dalla Germania alla Francia, Caterina Ribeiro, personaggio di culto. Tra l'altro, inizio trasmissione vi dicevo che sarebbero stati due riferimenti, rock progressivo europeo, libro meraviglioso uscito nel 1979, che trattava appunto tutto questo prog che di fatto insomma soprattutto in Italia, anche se abbiamo avuto grossi protagonisti e poi dopo metteremo anche, come dire, non aveva ancora quel quel seguito che invece magari si è sviluppato negli ultimi anni, appunto nel ripescaggio di questi irrecuperabili, che tanto poi irrecuperabili probabilmente non lo sono, e di fatto insomma a dimostrazione anche che esistano ristampe di questi lavori, e anche appunto in Italia formazioni che hanno fatto insomma un prog latere, ce ne sono state, e anche di un certo spessore sperimentale. E con Catherine Ribeiro si va in quella Francia che per tanti versi così affonda tanto in un'idea di folk bislacco quanto in un'idea di prog jazzato, ma anche astratto in alcuni punti, con anche delle elettroniche, tutto con un disegno che va veramente a sottolineare la voce meravigliosa di Catherine Ribeiro, che forse anticipa poi anche grandi cantanti insomma degli anni Ottanta. Adesso non voglio citare personaggi che probabilmente vi verranno anche in mente ascoltando appunto questa vocalità eccezionale, oltre che musiche che sì, vivevano tanto di prog, ma tanto veramente di astrazione, di sperimentazione, discorso insomma che questa sera interessa, questi anni 70 poi di fatto recuperati insomma. Catherine Ribeiro. Thank you. te. Contre des murs de béton. Paix au gourou de l'homme qui a faim. De naître. Paix à la haine, à la rage des opprimés. Paix à celui qui travaille de ses mains. Nature qui nous a toujours donné le meilleur d'elle-même et dont chaque homme, quel qu'il soit, a besoin. Paix à nos ventres, grands réservoirs de poubelles académiques. Paix à vous, mes amis, dont la tendresse m'est une nécessité. Fascination du feu, paix au lever du jour, à la tombée de la nuit, paix à celui qui marche sur les routes jusqu'aux horizons sans fin. Paix au cheval de la bourre, paix aux âmes mal nées qui enfantent des cauchemars. De poissons luisants de gasoil. Paix à toi, ma mère, dont le sourire douloureux s'efface auprès de tes enfants. Paix enfin à celui qui n'est plus et qui toute sa vie a trimé attendant des jours meilleurs. We'll be right back. Voce veramente eccezionale quella di Catherine Ribeiro, una Francia assolutamente fantastica, quella inventata sonoricamente da Ribeiro con le sue Alpes, e eccezionalità che comunque in una Francia che per molti versi stava cercando di creare un proprio senso, insomma, sempre trattandola la faccenda in maniera piuttosto così originale, o perlomeno insomma volutamente tale, ecco. In questo senso lo sciovinismo, insomma, francese, non me ne vogliono i francesi all'ascolto, insomma, tanto non ce ne sono, però comunque se per sbaglio ce ne dovessero essere, insomma, in questo senso ho portato bene, perché insomma il passaggio attraverso il prog è sicuramente di stampo regionalissimo per quanto riguarda la Ribeiro, ma non solo, anche per altre formazioni francesi che attraversarono appunto gli anni 70 in maniera progressiva, se così vogliamo chiamarla. Questa sera lo stiamo facendo di fatto, creando, insomma, cercando di creare, insomma, un fil rouge che era negli anni 70, quelli più liminari, quelli legati all'outsider, quelli che venivano anche soprattutto, insomma, così ben disegnati e scritti dall'Aprile e Luca Maier nella loro musica, la musica rock progressiva europea, appunto la citazione di prima è proprio legata all'Aprile, a Luca Maier, libro del 79, tra l'altro non da moltissimo ristampato, quindi insomma da poco, insomma, lo ritrovate sugli scaffali delle librerie, fatelo vostro, perché è veramente una lettura molto interessante di quegli anni 70, gli anni 70 sperimentali, che ancora si vogliono appunto dentro il prog, però con un'accezione sicuramente legata alla ricerca, naif per alcuni aspetti, oppure vero e proprio, insomma, trade union con le avanguardie storiche. Beh, la Ribeiro, insomma, sicuramente portava di nuovo quell'aspetto mitteleuropeo, seppur, insomma, collegato anche appunto a questa strana forma, insomma, di folk inventato, quasi reinventato. Beh, sicuramente, insomma, gestito in maniera innovativa, anche altre formazioni come l'Hard Free, appunto, sempre di quella francese, quella di terra francese, provenivano anch'essi. E l'Hard Free, che forse più spostandosi verso quella fusione che prima abbiamo toccato con Nexus Quam, e per alcuni versi anche con Anima Sound, quella fusione tra jazz, rock e insomma quel fil rouge con l'avanguardia che appunto accennavo poc'anzi, porta l'Hard Free verso lidi anche piuttosto lontani, ma anche fantastici, se vogliamo. E se ad esempio con un pezzo, due pezzi anzi, che andiamo a prendere dal loro primo disco omonimo, troviamo un synth trasformato in maniera molto vicina ai disegni delle avanguardie, e poi un altro pezzo che seguirà, insomma, il pezzo dell'album che ascolteremo quasi immediatamente, invece, dove il gioco tra elettronica e jazz rock è veramente fantasioso, sul serio creativo, e porta veramente verso lidi fantastici a livello musicale, anche con quel senso così molto elegante, visto poi che stiamo parlando di francesi, e con quella vaghezza giocosa che veramente rende la progettualità dell'Hard Free tra le più interessanti. D'altronde anche l'Hard Free, come Catherine Ribeaux, Ribeiro, Yayowa, Anima, Nexus Quam, sono dentro non soltanto alla musica rock progressiva europea di Al Aprile e Luca Meyer, ma anche in una lista che nel corso degli anni è diventata famosa, quella di Steve Stapleton dei Nashville Wound, che appunto traccia un percorso assolutamente incredibile di musiche altre, partendo dalle avanguardie storiche, arrivando agli anni 70, e anche appunto proprio quel famigerato, odiato prog proprio da tanta generazione industria, proprio quella che hanno attraversato anche nella Sweet Hound, però appunto Wound, ancora devo capire bene come pronunciare la diavoleria di Steve Stapleton, magari mi faccio suggerire in qualche maniera. E in questa lista appunto c'è anche il tanto bistrattato prog, però quello, insomma, alterato, è quello che stiamo questa sera trasmettendo su 451 frammenti sonori, e fino ad arrivare appunto a protagonisti come l'Hard Free di questi strani percorsi, dentro appunto questa lista che potete trovare anche adesso, insomma, abbastanza facilmente. Prima era, come dire, un luogo più che altro di culto, questa lista di Nashville Tune, con nomi veramente pazzeschi e con musiche altrettanto folli. L'Hard Free. notevole sul serio la progettualità di Lard Free, che appunto, come avete sentito, tanto si divertiva a creare spazi legati all'avanguardia elettronica. Anche nel primo pezzo che prima vi citavo, abbiamo sentito insomma un'elettronica di chiara matrice, insomma, laboratoriale, si potrebbe definire tale, ovviamente in termini scherzosi, nel senso comunque legata agli esperimenti, insomma, delle avanguardie storiche, che attraversavano appunto lo stesso linguaggio di Lard Free. E poi invece un pezzo che, insomma, abbiamo appena ascoltato, dove questo jazz rock si muoveva dentro un impazzimento elettronico, con una ritmica anche decisamente ardita, che anticipa, insomma, certe battute serrate, insomma, che perlomeno negli anni Ottanta si faranno sentire anche in maniera piuttosto creativa. E con l'Hard Free apriamo anche una strada verso quell'Europa prog, forse potremmo dire quasi anche post prog, per quanto riguarda Aksak Mabul, che Giro Recommended Record, quindi vicino a Enrico, quindi vicino a quella scena para canterburese, se vogliamo chiamarla così, e Robert Wyatt e alcuni, insomma, veri e propri, insomma, protagonisti della scena di Canterbury passeranno dentro Enrico. Da Enrico ci sarà l'unione con Sle Peppi tedesca, da Dagmar Krause, quindi una sorta anche di internazionale che poi farà nascere il Rock in Opposition in termini europei, quindi anche una internazionalizzazione di quella sperimentazione prog che passava tanto dai genovesi Picchio dal Pozzo, quanto appunto da Aksak Mabul, da formazioni anche lontane in termini geografici, che prevedevano, insomma, formazioni giapponesi, americane, veramente un percorso seriamente internazionale e anche internazionalista, visto che poi le simpatie di Enrico, piuttosto dichiarate e a livello esplicito, insomma, non è difficile trovare riferimenti politici dentro i dischi di Enrico, e anche soprattutto nella pratica, nel gestire la materia sonora. L'Hard Free prendevano, insomma, anche adito appunto da questo tipo di sperimentazioni, appunto, di Enrico, della mucca Enrico, e Aksak Mabul portano per molti versi una sorta anche di pontificazione delle sperimentazioni di Enrico, oppure di Hard Free che abbiamo ancora in sottofondo, però in maniera decostruita. Questa forse la particolarità, e forse lo sposta in quei lead di post prog che daranno anche così poi nascite molto interessanti, come la stessa Cramned Disc, che per buona parte degli anni 80 farà, insomma, una certa wave piuttosto, insomma, intereuropea, piuttosto colta, vicina appunto anche a una sorta di espressionismo musicale, e anche a una forma decostruita che appunto già Marco Lander con Aksak Mabul perseguiva, quella che potrebbe anche farci, non so, assomigliare a Aksak Mabul, a certi Residence, a certe strane Californie, appunto post art rock, o forse, insomma, espressione di quel passaggio particolarissimo tra personaggi e progetti musicali che rompevano, insomma, con gli anni 70 e già facevano prevedere quella wave che ci porterà fino, insomma, più o meno alla prima metà degli anni 80. E Marco Lander, appunto, poi si darà soprattutto alla carriera musicale, tra virgolette, in termini di produzione, con la citata Cramned Disc, ma in questo Ons Dance pur combatte la migraine. E sì, c'è questo percorso veramente che prende tanto da Enrico, da Recommended, dove tra l'altro stamperà lo stesso Marco Lander con i suoi Axel Mabul, e tanto da quel prog però appunto in via di decostruzione che darà i Vagiti anche a certa wave sicuramente di stampo europeo e non solo, visto che prima abbiamo anche citato i californiani Residence. Axel Mabul. Thank you. e dal Belgio di Mark Hollander, o forse olandese è meglio dire, di Axel Mabul, con insomma un senso anche piuttosto ironico, visto anche il titolo dell'album, Once Dance, pur combattere le migraine, 11 danze per combattere la migrazione, poi con appunto quel nome e soprattutto con una musica decisamente decostruita, insomma ci fa capire anche il personaggio di Hollander, insomma che diavolo potesse pensare, che diavolo insomma potesse essere il suo percorso musicale fine anni 70. Abbiamo appunto sentito quella sonorità vicina a Enrico, ma anche vicina a certe decostruzioni che poi prenderanno il piede. Qua si sentono degli accenni, però in realtà insomma è la stessa Cramnet Disc, la sua stessa etichetta fondata poi alla fine degli anni 70, di fatto promuoverà appunto le decostruzioni, alcune decostruzioni più interessanti degli anni 80, anche proprio partendo da quel prog insomma che questa sera stiamo trattando in maniera insomma piuttosto particolare, visto che insomma si tratta di un altro prog, di un'alterità prog, forse di un prog sperimentale, insomma potete un po' chiamarlo come mi pare, questi recuperi irrecuperabili in realtà, tutt'altro, che stiamo facendo appunto qua 451. E come vi avevo anticipato io nella prima parte, il finale lo lasciamo agli italiani, quindi insomma il giro, insomma una parte del giro d'Europa, forse l'Europa anche più vicina a noi, e lo finiamo appunto proprio qua in Italia con una storica formazione che è quella di NADMA, storici Davide Mosconi, Franco Pardi, Gustavo Bonora, Inez Clock, Marco Cristofolini, Marino Vismara, Mino Ceretti e Otto Davis Corrado. E dopo vi dirò insomma delle cose insomma legate a NADMA, intanto andiamoci ad ascoltare, visto che sono già, come dire, non proprio in sottofondo, stanno prendendo appunto come dire lo spazio dovuto radiofonico. Thank you. Beh, con Nadma andiamo veramente fuori anche dal prog, forse con loro, con la formazione appunto italiana, ma di fatto insomma con respiro assolutamente internazionale, si va verso l'improvvisazione libera, ma probabilmente è uno dei tanti sogni anche poi dei travalicamenti attraversati o appunto compiuti da alcune formazioni come ad esempio Harry Coe, proprio dal vivo, partendo appunto da un'idea fuorviante, meravigliosamente fuorviante e creativa di prog, si è arrivati soprattutto appunto nelle performance dal vivo, dove l'impatto improvvisativo era decisamente fuori da quello che poteva essere ancora disegnato come prog, e con Nadma appunto, con anche i loro percorsi legati non soltanto l'improvvisazione radicale, ma anche a una certa, potremmo anche dire, tradizione di musica di ricerca, ma insomma sarebbe anche abbastanza paradossale parlare di tradizione, seppur per alcuni versi da insomma dal dopoguerra in poi, e quindi dalle ricerche di Berio, di Maderna, sicuramente c'è stato un grande fil rouge che appunto arriva per certi versi ai nostri giorni con giovani compositori che anche nelle ultime puntate magari di 451 come Romitelli, appunto trattato nella scorsa trasmissione, abbiamo trasmesso anche volentieri. Nadma coloravano quindi questa improvvisazione radicale anche di un immaginario che potremmo ancora forse considerare prog, però appunto nell'accezione che stiamo dando in questa sera 451, quindi quell'accezione decisamente, squisitamente anche sperimentale. L'immaginario che potete trovare sia appunto attraverso le copertine di Nadma, ma anche appunto quelle sonorità che andavano poi a incrociarsi con certi mondi della Recommended, quindi della formazione di Fritta & Company, appunto la mucca Enrico. E con Nadma così finiamo anche fuoriuscendo appunto da questo percorso legato a una sorta di progressivo, un recupero irrecuperabile dei 70, un recupero che è quantomeno non soltanto doveroso, ma appunto creativo e seminale per quanto riguarda sperimentazioni che riguardano ancora i nostri giorni e probabilmente anche i giorni a venire, quindi in questo senso insomma tanto di cappello ai vari personaggi, da Yahoo, vabbè, stasera è un po', come dire, un po' uno scioglilingua, d'altronde ci giocavano anche loro, Anima Sound, Nexus Quam, Caterina Ribeiro, Lard Free, Axal Mabule, appunto Nadma che abbiamo ancora in sottofondo, tratto da un concerto dal vivo editato tra l'altro dall'Algemargen neanche tantissimo tempo fa, nel 2006, e appunto facendo le doverose referenze, deferenze a protagonisti di questa sera di 451, dedicato appunto a questi 70 irrecuperabili, punto di domanda. Io vi saluto, Max Macchia vi rimanda a domenica prossima, probabilmente in compagnia dell'altro infelice uomo Eliseo Scarpa. Ringrazio chi mi è stato accanto in trasmissione questa sera, ringrazio chi mi ha ascoltato, e ringrazio anche chi ci ascolterà tramite il blog curato da Lorenzo Albano, insomma l'anima grigia di 451, no, non nel senso cattivo, nel senso buono, nel senso è un po' grigio, a volte anche noir, insomma, il suo amato genere letterario e cinematografico, oltre che immaginario, insomma, tout court, che è quell'uomo. Vi saluto, buonanotte sul serio da Max Macchia e vi rimando alla prossima settimana. Fate i bravi, ciao.